Lo stivale del rock. Questa settimana, Malutempo. Ciao a tutti e a tutte, sono Antonio Olivo dei Malutempo ed è un piacere essere qui a Spazio Radio dentro lo stivale del rock. Malutempo nasce da un'esigenza semplice ma profonda. Dopo tanti anni di musica in giro per il mondo ho sentito il bisogno di tornare alle mie radici calabresi e volevo ripartire dalla lingua, dai suoni della mia terra e dalle storie che ho ascoltato da bambino. E così è nato un progetto che mette insieme strumenti popolari, influenze mediterranee e una visione molto contemporanea del suono, una musica che è tradizione ma anche ricerca, racconto e identità. Il nostro primo album, Mala Tempora Currunt, è stato accolto davvero bene. Siamo finiti sulle principali riviste italiane e nella top 5 del Manifesto e abbiamo portato il disco in festival importanti fino al nostro primo concerto all'estero nel 2025 a Bruxelles. Oggi sono qui per presentarvi il nostro nuovo EP che si chiama Farchinoria, uscito il 17 novembre, prodotto da Franco Eco con il contributo del Nuovo Imaie ed è un lavoro che va ancora più a fondo, va dentro i miti, le leggende, le magie popolari e le figure arcaiche del mondo pastorale calabrese. In questo EP la lingua non è solo qualcosa che si canta, ecco, diventa gesto, ritmo e rito. È una lingua che evoca, che chiama e che racconta emozioni antiche. Con me ci sono due voci splendide, Sasa Megna e Marzia Ruggeri, che portano nel disco tutta la forza del canto tradizionale, quello che vibra nella pancia prima ancora che nelle orecchie. Farchinoria non è un disco nostalgico, è un disco vivo, unisce passato e presente e trasforma il dialetto in paesaggio sonoro e fa rivivere un immaginario che rischia di scomparire. Quindi se avete voglia di entrare in un sud magico, misterioso, viscerale, questo è il viaggio. Questo è Farchinoria, il nuovo EP dei Malutempo. Grazie a Spazio Radio e allo Stivale del Rock per averci ospitati e grazie a voi che ci state ascoltando. Farchinoria, Malutempo. Aria fritta picchiro che c'è stato, bruciano vago di un tempo antico, che arriva tardi, croce non si può contare. Venu che balla te, ma non li mani, una pecora spartuta tra gli imbriati. Vinta tu bagliaro, anime d'azzurri, notti senza santi, fumi e fuori sarò mondo, senza torne a raccapa. Corni mi l'ha fatto un uguaglione, i pecori cambiami l'Africati, i femmini ti dirò su nessuno, venite tutti quanti e vi mostrate. Venite tutti quanti ad una di rimenzioni, i pecori già siano muti e curiosi, i quattro pecorari scoprire per le zone, in ci fingono l'amore, due erbegliure, c'erano coppie con mani incrociate, eppure i beduvi se senza piccati, e vecchiarelli sole e culicani, tutti non da stanotte sentire che mi sta un mondo senza corni a raccapa, i corni mi l'ha fatto un uguaglione. I femmini ti dico su nessuno, venite tutti quanti e vi muscati, venite tutti quanti ad una Magara, malu tempo. La danciana notte scura, il fumo parra da paura, fuoco commora qua mai stanca, parru con l'ossa quando la notte arranca. Sali oggi d'acqua santa, notti spirite cammanta, caccio la fascia e non pennenti, o sullo scurato perché era gente. Vio a morti prima che arriva, vio e non si scioglie più mia sacruci. Danno ed incanto, velo cuvera l'occhi di santo, a notte dormo, sento i voci, parrucchi morti si rivoltano i croci. Figlia di spiriti muti, rosa marino mente ruta, bucca cusuto cano sciassita, caccia tu male, va avanti a vita. Troppo canusce non sa campare, chi ruca vido non vuol dire, voce muta barracchi morti. Marcalupo, Malutempo. Abbiamo trasmesso lo Stivale del Rock. Questa settimana, Malutempo.